Fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Risto Radio Convento di nuovo, buonasera, sabato 6 ottobre 2018, 1:46 del mattino, sempre live dagli studi della nostra web radio in compagnia di un'altra sposa, un'altra protagonista di questo nostro lungo sabato sera. Diamo il benvenuto a Claudia. Vai Claudia! È rimasta scioccata, non le danno mai il benvenuto a Claudia, non la salutano mai, quindi ha avuto questo momento di shock. Dicevo, ma mi salutano me, non mi è mai successo che qualcuno mi salutasse nella vita. Ciao a tutti, sono Claudia. Bene. Sono ubriaca. Si partono dalle basi sempre, certo. La base è il nome e salutare. E mi devo sposare. E si deve sposare, bene. Claudia? Fra 2 settimane. 2 settimane. Esatte. In pacca. Ah esatto, cioè proprio tra 2 sabati quindi. Esatto, a cazzo cosa. E sabato prossimo è il suo compleanno. Ma che bello, sono 3 sabati indimenticabili quindi. Mamma mia, sì, l'ultimo sabato. Anche con meno gioia, lo puoi dire, con meno entusiasmo. Sì, infatti. No. Mi sta passando l'effetto dell'alcol. Ah, è quello, è la fase down, come esatto. Si dice in gergo proprio tecnico. Adesso devo iniziare la fase up. Ah, riparte la fase up, perfetto. Allora, Claudia, quindi sappiamo già cosa festeggi, ce l'hai detto. Quando ti sposi ce l'hai detto, vuoi dirci anche chi è il tuo futuro marito? Se ti va? Sergio. È un tasto dolente questo, perché poverino, è un po' poverino. Che... non lo so. No, non è un tasto dolente. No, dai, poverino Sergio. Fortunato. Sì, dai, è fortunato. Ce lo dici che tu, è fortunato? Noi ci fidiamo. Super fortunato. Allora, noi ci fidiamo del parere delle tue, esatto, delle tue amiche. Tra l'altro dovete anche sapere che la suocera è contenta di Claudia. Sì? Sì. E come così mai? Dicono. Così dicono. Non e lo che... so, perché è vivace. Chi, la suocera o Claudia? Claudia. Ah, Claudia. Quindi questa vivacità ha conquistato la suocera, sì, a tuo parere. Beh, guarda che è una qualità. Claudia, contieniti, cazzo. Essere una donna con i pantaloni, detto in modo un po' più elegante, è una qualità che possono apprezzare le mamme, assolutamente sì. Brava. No, dicevo che tra l'altro Claudia ha girato con un cartello per tutta sera, che ancora indossa. Ma non ho ancora ricevuto un mojito, ragazzi. Ma magari non sei stata convincente. Tra l'altro una su questa tua dichiarazione. Sì, Sailor Moon. Un altro protagonista, Sailor Moon. Dicevo che tra l'altro su questa tua dichiarazione una tua amica è svenuta, la tua amica bionda, ha avuto un mancamento. E però anche del gruppo, poverino. No, ha fatto tardi, quindi ha già scavallato. Diciamo che lei è dal 2004 che non faceva luna. Cioè ancora a un certo punto dopo la mezzanotte e mezza girava intorno al locale, ha molestato tutti dicendo ma esistono davvero ancora la mezzanotte e mezza? Sì. Io credevo che il mondo finisse alle 11. Salutiamo Nora. Cioè io pensavo che il mondo finisse alle 9 di sera. No, 9 e mezza, ma quando proprio serate esplosive quelle 9 e mezza. Ed era una teenager anni fa. Sì. Il tempo passa per tutti. Io c'ho il matrimonio che poi pensa che io sono seduto e ho mal di schiena, quindi figurati, è un danno. Quindi tornando alle cose importanti, stiamo ancora cercando un volenteroso che possa offrire alla nostra futura sposa Claudia un mojito. Sono alla ricerca almeno di un mojito e non ce l'ha ancora fatta, no. Quindi direi che è anche l'occasione per fare un appello, magari per prepararlo e poi farlo a qualche uomo fuori. Provaci, dai, prova a mandare il tuo appello al tuo ricerca. Ragazzi, riceverà un premio chi mi offrirà un mojito. Attenzione, perché sul premio si sono accese un po' di lampadine. E che tipo di premio? Non lo so, deciderà al momento. Ah, deciderà al momento. E dai qualche possibilità, insomma, dai qualche opzione. Dici, qualche opzione. No. Ah, improvvisata. Va bene, allora cerchiamo qualcuno che offra un mojito alla nostra Claudia. Nel frattempo, vuoi presentarci anche le tue amiche, il gruppo che ti accompagna? Allora, alla mia sinistra. Sì. Stefi. Ciao, sì. Stefi. E la sua borsetta che non ha ancora lasciato, è tipo il tesoro del Signore degli Anelli. L'infanzia. Esatto. Non vedo chi c'è in parte. Olga. Olga, ciao anche Olga. Un'amica scoperta. Scoperta nel senso che va fuori sempre mezza nuda? No! Ah, scusa. Pensavo che si vestisse poco. Scoperta nel senso che lasciava Giulia. Molta pelle. No, Giulia. Un'altra amica. è una cugina in secondo grado, che è quella morta, che è svenuta prima, che sta dormendo, che sta dormendo, ok, è Elena, mia cugina, perfetto, Arianna la testimone, Elvira una mia amica, poi ci sono io e la sposa. Perfetto, perfetto, mi è piaciuto che abbia toccato la testa a tutte nel presentarle, perché insomma cercava contatto, mi piace che cerchi questo contatto fisico. Allora Claudia, dai, prima di lasciarti tornare in pista a divertirti, vuoi dire qualcosa, vuoi ringraziare qualcuno? E che ne so, c'è un microfono, approfitta. Ah, ringrazio tutte le mie amiche che hanno organizzato per la seconda volta un ottimo addio. Seconda? Come mai? È bissato? Sì. Due, non ti sei fatta mancare nulla. E esatto. Quando è stato il primo? Quando è stato il primo? A luglio. Il 28 Milano Marittima. Milano Marittima, insomma, il posto, uno dei posti più in che abbiamo in Italia. Possiamo dire il nome al papete? Beh, anche immaginavo, Milano Marittima, qualche Gardaland sicuramente non era. Esatto, no, esatto, già dire Milano Marittima implica qualcos'altro. Quindi come mai sta scelta del doppio addio al nubilato? Non è una cosa così consueta? Perché chi non è venuto al primo è venuto al secondo. Fai solo cose grandi. Poi ci si sposa una volta sola. Ma è fatto benissimo, però non diciamo. Speriamo, Claudia, perché anche tante sotto riusciamo a farlo. Sì, no, anche perché poi poverina, dov'è l'amica delle 9:30? Cioè, insomma, questa qui adesso ci mette. Norma. Ci mette un anno a recuperare sta serata. Se continuate a fare addio al nubilato, questa mi va in crisi. Cioè, non recupera più. Bene, allora complimenti per questo secondo addio al nubilato. Erano presenti tutti anche al primo loro? No, io e lei. Ah, solo in due. Avete. Lei e lei. Ah, solo in tre avete fatto la doppietta. Bene, brave. Allora, grazie mille ragazze, vi auguro una buona serata, grazie, e una buona fine festa. Grazie per essere state con noi. Ciao! E la Claudia si sposa, e la Claudia si sposa, e la Claudia si sposa, Ale! Claudia specifica.